Radio 24 Reportage. Di mamma non ce n'è una sola, di Valentina Furlanetto. Di mamma ce n'è una sola, diceva un vecchio adagio, eppure, come per le mezze stagioni, non è più così. Esistono circa 100.000 bambini in Italia che vivono in famiglie dove ci sono due mamme, oppure due papà. Sono le famiglie omosessuali, coppie di donne, coppie di uomini, che assieme allevano dei figli. Il dato, l'ultimo statistico, risale al 2005 e potrebbe essere addirittura sottostimato. Un vero e proprio baby boom, come raccontano anche i soci dell'associazione Famiglie Arcobaleno, che riunisce proprio queste famiglie di coppie omosessuali. Presto noi sognerei. Che siate d'accordo o meno con il fatto che le persone gay possano avere dei figli, il fenomeno è sotto i nostri occhi e vale la pena raccontarlo. Ci aiuta a farlo Silvia, che gentilmente ci apre le porte della sua casa. Silvia e la sua compagna sono un esempio di questo baby boom. Le avevamo incontrate alcuni anni fa, avevano una bambina. Oggi i bambini sono quattro, più una gatta che, per non essere da meno, ha avuto due gattini. Io ho sempre saputo che avrei avuto dei figli nella vita. Quando mi sono fidanzata con Francesca, prima stavo con un uomo, e però non volevo dei figli perché evidentemente non... Però sapevo che nella vita avevo avuto dei figli. Quando mi sono fidanzata con lei, comunque mi sono sentita di aver trovato proprio la mia, insomma, metà. Abbiamo cominciato a pensare che sì, avremmo avuto dei figli, abbiamo cominciato a leggere, a informarci, a vedere, a sentire, a parlare con delle persone. Vabbè, abbiamo letto molto, visto molto, e all'inizio pensavamo di trovare un amico che potesse fare da donatore, poi però nel tempo, insomma, un po' vivendo quest'idea così, ci siamo resi conto che in realtà poi la famiglia eravamo noi, e per cui sarebbe stato per noi più giusto, più, insomma, ci sentivamo meglio con l'idea di avere un donatore anonimo. Abbiamo scelto l'Olanda, dove il donatore si può conoscere alla maggiore età, perché comunque l'anonimato delle origini ci sembrava un problema per il bambino, che però poi può, se ha la curiosità, conoscere il donatore. Sapendo che è un donatore, non sarà mai il padre, non è il padre, su questo è molto chiara la cosa. Ora tu non spiegare. Per le donne è infatti molto diffusa la fecondazione in vitro, come hanno fatto Silvia e Francesca, praticata appena fuori dai nostri confini nazionali, in Spagna, Gran Bretagna, Olanda o Belgio. Per gli uomini invece è più complicato, perché per avere una gravidanza surrogata, in pratica una donna che si mette a disposizione e porti avanti una gravidanza per conto terzi, bisogna arrivare fino agli Stati Uniti o in Canada. Rispetto alle nostre famiglie, la fatica per una famiglia avere figli omosessuali, poi una volta che è figli omosessuali, almeno nel nostro caso, il fatto che arrivassero dei nipotini era una gioia pazzesca. Voi avete quattro figli, però biologicamente e per la legge tu sei la mamma dei primi tre, Francesca dell'ultimo. Questo che problemi comporta? Ovviamente complica le cose, ma crea anche dei problemi dal punto di vista dei diritti dei bambini. E infatti questo poi è un po' il problema, è un po' il pasticcio, perché poi in realtà non è proprio vero che la famiglia in Italia, le coppie omosessuali non sono riconosciute, perché poi tu quando fai lo stato di famiglia ti metti sullo stato di famiglia. Io quando avevo i tre figli tutti intestati a me, comunque pagavo il livello massimo e guadagnavo poco. Pagavo la retta massima al nido, perché comunque veniva riconosciuto anche lo stipendio di Francesca, pur non essendo i bambini suoi eredi diretti. E è sempre un po' l'inquietudine del futuro, perché le leggi servono un po' a garantire le famiglie, soprattutto nel caso in cui io e Francesca dovessimo separarci. Io penso che non lo faremo mai, no? Però sempre chi si mette insieme pensa sempre che non si separerà mai. Quando succede, nei casi delle nostre famiglie, il prezzo più alto lo pagano i bambini, perché non sono tutelati. E visto che i genitori in genere si scannano, i bambini sono molto più esposti a non vedere più la madre non biologica, cosa che può succedere, che ci sono casi nelle nostre famiglie in cui sono successi, e anche a non essere più mantenuti. Noi, in nostro caso particolare, ci sentiamo abbastanza sicure. Però innanzitutto ci sono famiglie in cui non sono così semplici i rapporti con i nonni, con i parenti, tutto. E poi comunque non puoi mai sapere cosa succede, come possono cambiare le cose. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Flavia mi accompagna a vedere la casa. In una grande camera dormono i tre bambini più grandi. Il più piccolo, 6 mesi, dorme in un lettino nella camera delle due mamme. Un piccolo tavolino a forma di funghetto domina invece la camera dei giochi. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Silvia ha appena accompagnato il più piccolo dal pediatra. Francesca, che è appena rientrata dal lavoro, mi saluta frettolosamente. Vuole sapere della crescita del piccolo, il quale, dice la pediatra, cresce forte e sano, come testimoniano anche i larghi sorrisi e i gorgheggi di gioia. In cucina Francesca inizia a volteggiare come una trottola per preparare la pappa al bambino che scalpita dal seggiolone. La scena è talmente di routine che rasenta la banalità. Ma i figli, almeno quella più grande che ormai ha quasi 8 anni, non fanno mai delle domande? Noi abbiamo sempre detto tutto abbastanza presto e le abbiamo sempre spiegato, in questa clinica abbiamo preso il semino, chiaramente la spiegazione cambia a seconda dell'età e quindi loro sanno di avere due mamme e poi abbiamo introdotto l'idea che un signore gentile ha lasciato un semino in una clinica. I maschietti, no? Sì, ma più che chiedono, no? Vedi che hanno capito perché esiste, magari ridono, no? E ti guardano e dico papà, cioè ti tirano, buttano la coda del papà, poi gli abbiamo detto che loro saranno dei papà da grandi, avranno la barba, loro adesso ci tengono molto. Ecco, secondo me il problema un po' è ad esempio per i maschietti che non si riescono a trovare insegnanti maschi, cioè per avere, al di là che in famiglia loro hanno zii, cose, nonni, però magari a scuola anche un maschio adulto che possa essere così da vedere, sì. Cioè i papà li vedi pochissimo in giro, no? Per cui noi all'inizio ci aspettavamo la domanda perché non ho un papà. Invece il problema era fargli capire che cavolo erano sti papà, perché non li vedevi. Allora quando vedevi un papà, guarda, c'è il papà di Tizio, è una fase pazzesca perché dovevi che lo vedesse, perché... Però vabbè, insomma, devo dire che non ci sono mai stati problemi, e sono sereni, cioè vedi che comunque loro sono sereni rispetto a questa situazione. Quando schiamo i bambini a scuola, andiamo a parlare con le maestre, spieghiamo la famiglia, tutto ciò che è nella realtà, poi dopo la realtà lo accetta, capito? Cioè se tu devi parlare in astratto, probabilmente se tu vieni a scuola mia, andavi a scuola nostra, prima che arrivassimo noi, dicendo cosa ne pensate di, avrebbero detto delle cose terribili. Poi dopo, cioè, arrivi tu e sei nella realtà, allora magari cominciano a dire sì, ma loro no, perché loro invece sono brave, come ci è capitato, no, sì, ma voi... Poi a poco ti accorgi che ciò che vedi, cioè siccome sull'omosessualità c'è comunque un pregiudizio, e quando agisce un pregiudizio, poi la realtà lo fa abbastanza sciogliere. Abbiamo scoperto quindi che in Italia esistono molte famiglie formate da coppie omosessuali. Ma sono buoni genitori? Lo abbiamo chiesto a una studiosa, Chiara Lalli, che ha pubblicato da poco con Il Saggiatore un libro che ha il merito di essere molto razionale e scientifico. Si intitola proprio Buoni genitori ed è dedicato a queste nuove famiglie. Chiara Lalli è docente di logica e filosofia della scienza presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università La Sapienza di Roma. Si sente sempre dire che a priori gli omosessuali non potrebbero essere genitori perché c'è qualcosa che non va nel loro orientamento sessuale, o perché il bambino ne soffrirebbe, o perché è innaturale, contro la famiglia tradizionale. Se ci mettiamo a riflettere ci vengono in mente tanti degli argomenti. Io mi sono rivolta a una enorme quantità di letteratura in merito, letteratura scientifica, soprattutto americana, ma non solo, che tranquillizza le paure da tutti i punti di vista, perché appunto questi studi lasciano emergere che non esiste nessuna differenza intrinseca tra un genitore con un certo orientamento sessuale, cioè eterosessuale, e un genitore con un altro orientamento sessuale, mettiamo omosessuale, perché a contare non è tanto l'orientamento sessuale del genitore quanto come quel genitore si prende cura del proprio figlio, come lo ama, come gli vuole bene, come lo coccola, cioè la qualità relazionale conta, non l'orientamento sessuale, e che questi due elementi sono